Tu lavori di più, io vendo di più, ma pago anche di più. E tutti siamo felici e contenti. E poco importa se quei soldi sono dentro o fuori busta. In una parte del produttivo Nord-Est conta la sostanza. Ora che gli investigatori hanno denunciato una maxi evasione nel cuore del distretto veneto della Concia, si scopre che la locomotiva d'Italia talvolta evade, fugge all'estero e raggira le regole, oltre che lavorare, perché tanto così fan tutte, ripetono, e nel bel paese Malcomune è sempre mezzo gaudio. Arzignano, Valle del Chiampo, nel Vicentino, 2000 aziende, 25.000 anime, è una storia di lavorazione delle pelli che va avanti dal 300, una storia da grandi numeri, come quelli contestati ad uno dei gruppi simbolo, la Mastrotto. 1.300.000 euro portati all'estero, IVA evasa per 2 milioni, 800 dipendenti pagati in nero per gli straordinari, con sistematici fuori busta arrivati a pesare 9 milioni in più anni, come scopre la Guardia di Finanza. Il gruppo da altre cifre e prima commenta che comunque quella è una prassi consolidata e poi scrive di non voler giustificare comportamenti sbagliati. È il velo che si squarcia sul viso dell'Italia fino ad ora più patinata, visto che di quelle pelli si fornisce tanto la Tod's quanto l'IKEA, pelli cedute talvolta anche sotto banco, secondo l'accusa. Il colonnello Paolo Borrelli. Buona parte degli straordinari veniva pagata in nero. Per quanto riguarda invece il fenomeno dell'evasione fiscale internazionale, esso riposa invece sulla attrazione in Italia sotto il profilo fiscale di una serie di società lussemburghesi che facevano parte della catena di controllo di questo gruppo imprenditoriale che abbiamo verificato, i cui redditi sono stati ricondotti appunto a tassazione in Italia. Soldi portati all'estero per non pagarci le tasse in Italia, in soldoni. Trattasi di strutture societarie estere i cui redditi venivano dichiarati nel Granducato del Lussemburgo, ma che per l'amministrazione finanziaria dovevano essere tassate in Italia. Questa vostra operazione arriva dopo altre operazioni che ci sono state riguardanti questo distretto. Non è un caso isolato? Alcune indagini che abbiamo svolto portano a ritenere che ci siano diverse società che pongano in essere condotte fiscalmente irregolari. A bloccare il meccanismo delle galassie parallele la contestazione di due tangenti a funzionari delle agenzie delle entrate per evitare gli accertamenti. Uno schema già visto da quelle parti un paio d'anni fa, quando fu contestata una mega frode dell'IVA ad una cricca locale. Così ora il distretto, sopravvissuto alla crisi e alla concorrenza, anche accogliendo tantissimi stranieri, è squassato dai sospetti reciproci. Certamente le indagini hanno coinvolto un numero di operatori molto elevato, però è chiaro che esiste un'ampia parte di tessuto sana. Ed è quest'altra parte ad essere insorta contro la giustificazione data dai Mastrotto sulla prassi consolidata, la parte che rivendica l'estraneità a certe pratiche di evasione, quella sintetizzata nelle parole del presidente di Confindustria di Vicenza, Roberto Zuccato, che ha bollato l'evasione come un fattore patologico di ingiustizia sociale e distorsione della concorrenza. Possiamo criticare le leggi, ma sempre applicarle è il confine netto tracciato anche da Walter Peretti, presidente della sezione locale Concia di Confindustria, che lancia un allarme sulle ricadute di quell'indagine e riflette anche sulla stretta anti-evasione al vaglio ora del governo, che arriva fino al carcere. Che possano esserci stato, magari più nel passato che attualmente, dei comportamenti non completamente corretti sotto il punto di vista del pagamento di una parte dello stipendio ai dipendenti, evidentemente dalle notizie che stanno emergendo non si può negare. Però da questo a dire che questa è una prassi è una posizione sulla quale non mi riconosco e che non accetto. La vostra preoccupazione in questo momento è anche quella un po' di immagine dell'intero distretto, no? Io le dico che oltre al danno d'immagine rischiamo di avere anche dei danni di carattere economico e sociale molto concreti e in tempi brevi. A che cosa fa riferimento? Rischiamo di avere delle ripercussioni sul fronte del credito, perché non so se tutti gli istituti di credito continueranno a fornire il credito necessario alle aziende per poter continuare a operare, sul fronte delle assicurazioni credito, che mi risulta stiano già facendo delle manovre di rientro, sul fronte, come ha detto lei, dell'immagine / clienti, che potrebbero decidere di evitare di comprare dalle aziende della nostra zona. Lei diceva che sul fronte delle assicurazioni ha già dei segnali in questa direzione, che vuol dire? Stanno già riducendo i limiti di credito ad alcune aziende coinvolte nell'indagine. Quindi alla Mastrotto, per in sostanza. Il momento mi risulta così, ma la paura è quella che questo comportamento diventi generalizzato su tutto il comparto, visto che siamo tutti evasori. Ecco, Presidente, lei ha invocato una discontinuità da applicare in che modo? Ci siamo già impegnati a attuarla con comportamenti etici su qualsiasi fronte. Quello che io ho chiesto o cerco di chiedere attualmente è di riuscire a trovare con le istituzioni dei percorsi condivisi per cui chi eventualmente avesse commesso qualche errore nel passato, pagando, possa sanarlo e si possa mettere una pietra sopra queste tristi vicende e si possa pensare al futuro. Si sta discutendo tra le varie proposte cambiate di questa manovra anche di una stretta sull'evasione che arriva addirittura fino al carcere. Non ho niente in contrario a un inasprimento delle pene, però secondo me questo andava fatto con una riforma del fisco che smettesse di tartassare il lavoro e ci rendesse parificati ai livelli di imposizione fiscale che ci sono, non dico nei paradisi fiscali, ma nei paesi civili come la Francia, la Germania o l'Inghilterra. Se guardiamo all'esempio di nazioni come gli Stati Uniti, è una cosa che esiste da sempre, diciamo. Però sicuramente il sistema fiscale americano non è il sistema fiscale italiano. Di sicuro però a Vicenza questa inchiesta che accusa i fratelli Bruno e Sandro Mastrotto di corruzione, evasione e lavoro nero ha segnato un solco che è come una trincea nel distretto, per cui alcuni preferiscono tacere più che parlare e il silenzio si popola di tensioni ma anche di incredulità come quella trasmessa dall'assessore di Arzignano Beatrice Marchezzolo. Non credo che siamo i peccatori più grandi d'Italia. Chi evade è un evasore. Io non so l'intendenza di finanza cosa abbia trovato, però penso che anche la ditta Mastrotto che ha come sfarinato un sacco di dati, ecco, io sono veramente confusa, insomma, perché uno mi dice una cifra esorbitante e l'altro no. La Guardia di Finanza parla di 106 milioni, la Mastrotto ribatte con 53, dice di non aver mai nascosto redditi e assicura che tutti i dipendenti sono assunti regolarmente, ma le contestazioni riguardano gli straordinari e a sentire la gente del posto sembrano svelare un modus operandi andato avanti anche grazie al tacito accordo degli stessi operai, come ha scritto un avvocato della zona, Massimo Malvestio, sulle pagine locali del Corriere. Le par possibile che 800 dipendenti siano stati pagati per anni in nero senza che nessuno abbia mai denunciato nulla, senza che i sindacati potessero saperne qualcosa. A me pare che quando è stato detto che così fanno tutti, non solo sia vero che così fanno tutti, ma sia anche vero che è una prassi che gode di un ampio consenso sociale, per cui anche l'attività di denuncia avviene in modo molto diverso di quello che avverrebbe per altri tipi di illecito. Qui c'è una cultura che è una cultura del territorio. Gli operai hanno spesso attività a casa, per cui il pericolo vero dell'assenteismo nelle nostre aziende viene più dalla vendemmia che dalle partite di calcio. Quando arriva un ordine, gli operai, almeno i più anziani, sentono che rispondere al cliente è un dovere loro quanto del padrone. Questi straordinari sono un'occasione per arrotondare in maniera importante. Quello che si cerca, e neanche l'evasione previdenziale, quello che si cerca è la flessibilità. Qui la cultura delle 40 ore non è mai entrata, perché l'operaio che fa 40 ore e va a casa si vergogna con la moglie se non fa altro. Ovviamente applicando i contratti molte volte lo straordinario sarebbe proibito. Ci sono operai che durante la settimana lavorano all'interno della ditta in cui sono impiegati con un certo stipendio e che poi nel weekend lavorano altrove, ma con anche con cifre ben più significative. Quali sono? Le faccio l'esempio dei manutentori. I manutentori che lavorano in aziende importanti molto spesso hanno le competenze per fare i manutentori in aziende più piccole. Al sabato sabato alla domenica, quando le aziende sono chiuse, si presentano, ovviamente vengono pagati totalmente in nero. 400 euro a weekend, queste le cifre che girano fuori busta. E nessuno denuncia, anche perché ci sono tantissimi stranieri, ricorda Fabrizio Nicoletti della CGL Vicentina. Noi non possiamo far finta di nulla, ci può essere qualche lavoratore che preferisce la retribuzione perché diventa netta a quel punto. Se questo è il meccanismo che si era diffuso, è chiaro che forse di fondo c'è un problema culturale, no? E non è un caso che nel gruppo Mastrotto, detta con franchezza, noi non ci siamo di fatto. Questo settore ha escluso probabilmente il sindacato anche con questa forma. Io penso che questo settore nella sua storia ha fatto passi da giganti in alcuni momenti storici, poi si è adagiato su se stesso, nel senso che trovando appunto sembra forme non regolari per fare margine, ha trascurato l'aspetto industriale, ha puntato più sulla quantità che in un ragionamento di qualità. Il sindacato non è mai stato visto come un aspetto di potenziale crescita, dimenticando la storia che grazie alle battaglie sindacali negli anni Ottanta le fabbriche si trasferirono dal centro della città alla zona industriale creando un depuratore. Quel depuratore ha permesso a questo settore di diventare il primo settore al mondo. Questa vicenda avrà degli strascichi secondo lei? Il pericolo adesso è che si scarichi sul lavoratore. L'azienda avrebbe chiesto la cassa integrazione per 400 operai e nei commenti sottovoce non manca chi dice che a certi illeciti in fondo si ricorre per riuscire a sopravvivere davanti a pressioni fiscali, burocratiche e normative, oltre che a costi del lavoro considerati troppo onerosi. E questa inchiesta ora rischia di mettere in difficoltà anche la Lega Nord, che nei giorni in cui predica contro l'evasione scopre di averla in uno dei suoi fortini. Nessun imbarazzo, chi evade va punito, sentenzia il segretario provinciale Maria Rita Busetti. Questo sistema potrebbe essere nato da un metodo molto vecchio che ha dato in quel ritmo velocissimo di crescita del Nord-Est. Così fanno tutti quelli vecchi, ancorata a un sistema di rapporto lavorativo che andava bene 50 anni fa. Sistema una volta che esulava probabilmente da un'educazione di partecipazione allo Stato. Quindi la crescita del Nord-Est poggia anche su questo rapporto? Cioè, potrebbe essere stato anche questo. Quindi nessun imbarazzo politico per voi? No, assolutamente, perché sono convinta che in ogni società ci sia chi segue le regole e chi non le segue. Sono anche convinta, se mi permette, che se in altre parti d'Italia facessero le stesse analisi e le stesse ricerche che fanno nel Veneto, probabilmente troverebbero situazioni simili. In altre parti d'Italia mi pare che il lavoro sia un pochino più creativo. Creativi lo sono stati di sicuro, ma nel senso letterale del termine, nel distretto della Concia di Solofra, in Irpinia, dove ora la crisi è quasi alle spalle, replica il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Caporale, che sottoscrive il problema dell'alto costo del lavoro, ma non ci sta al ping pong nord-sud. La ricerca e anche l'organizzazione della filiera del distretto gli hanno permesso di essere all'avanguardia, soprattutto nelle fasce medio-alte. Ormai a Solofra si producono delle pelli talmente duttili che tutto sembra tranne una pelle, perché hanno generato tutte le caratteristiche di un tessuto vero e proprio. Forti di questa capacità, i nostri operatori solofrani hanno ampliato il loro mercato d'azione, non più solo capi di abbigliamento, ma soprattutto anche attività di arredo, le calzature, i guanti. Solofra è l'unico distretto in Italia della Concia certificato come un distretto ecocompatibile. Forse non è sempre vero che così fanno tutte. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di questi 5 anni di Storiacce, dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Storiacce è anche un blog o una pagina Facebook. Aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni. Prima di chiudere però vi anticipo una sorpresa che troverete a partire dal prossimo weekend. Dopo 5 anni, infatti, Storiacce termina qui, ma da sabato prossimo continueremo ad occuparci, anzi lo faremo ancora di più, di inchieste e misfatti italiani. Lo faremo alle 8:30 del mattino. L'appuntamento è con A ciascuno il suo. Ciao a tutti da Raffaella Calandra, a sabato prossimo alle 8:30, ricordate.